America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Today, the United States, together with our allies and partners, has reached a historic understanding with Iran, which, if fully implemented, will prevent it from obtaining a nuclear weapon. Barack Obama, il presidente americano, devo dire, di ottimo umore, quando ha annunciato da Washington, dal Giardino delle Rose, subito davanti all'ufficio ovale, davanti al porticato dell'ufficio ovale, l'accordo che è stato raggiunto ieri a Losanna con l'Iran. Un accordo che, ha detto Obama, dovrebbe garantirci per il futuro che l'Iran non perseguirà l'obiettivo di avere una bomba atomica. È chiaro che interessa immediatamente, dal punto di vista americano, capire qual è la reazione dei repubblicani e del Congresso. Sentiamo Ed Royce, presidente della Commissione Esteri al Senato. And so we need to push back because it's Iran that's transferring these rockets, giving the money to Hezbollah and using it to threaten Israel. And I want to see our administration and our government take a stronger position against Iran. Ecco, Royce dice, beh, dovremo vedere i dettagli, cercheremo di capire, come dire, anche i repubblicani in congresso, e parliamo del presidente della commissione esteri, quindi un personaggio di una certa influenza, hanno abbozzato. Secondo me hanno fatto bene, perché fra i dubbi che sono inevitabili in accordi di questo genere, i dettagli irrisolti, le verifiche necessarie, la valenza storica, come diceva Barack Obama, di questa svolta avviata a Los Anna c'è e non può essere sottovalutata. Perché hanno fatto bene, faranno bene a prendere tempo nel passare, per esempio, nuove sanzioni che avevano minacciato? Perché se i nodi che sono ancora aperti saranno risolti, se l'impianto quadro che è stato annunciato ieri terrà e se il 30 giugno vi sarà l'accordo finale, beh, non avremo solo archiviato un pericolo di proliferazione nucleare in Medio Oriente, ma avremo archiviato 36 anni di isolamento dell'Iran dal mondo occidentale. Avremo riaperto canali economici che interessano sia l'America che l'Occidente intero e avremo avviato un dialogo con un interlocutore che potrebbe contribuire a stabilizzare la situazione nell'intera area medio orientale, se il dopo accordo di Losanna sarà gestito bene, e avremo dimostrato soprattutto che le sanzioni economiche funzionano come arma diplomatica e politica per riportare su più miti consigli chi pensa di poter agire a suo piacimento sfidando accordi internazionali precostituiti. Per questo ieri abbiamo visto Barack Obama raggiante nel Giardino delle Rose. Giustamente il suo ricordo mentre parlava risaliva agli anni bui della Guerra Fredda, quando Ronald Reagan, Mikhail Gorbachev si trovarono a Reykjavik in Islanda nell'ottobre del 1986, un summit che tra l'altro seguì già allora, e avviarono proprio su un dialogo nucleare poi un negoziato che portò 3 anni dopo ad altre svolte. Intanto portò un accordo per la denuclearizzazione, ma soprattutto ci furono svolte storiche ben più importanti, la caduta del muro di Berlino e un dividendo per la pace che segnò negli anni 90 un periodo irripetibile di rinascimento economico. Sentiamo Obama. The American people understand this, which is why solid majorities support a diplomatic resolution to the Iranian nuclear issue. They understand instinctively the words of President Kennedy, who faced down the far greater threat of communism and said, "Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate." Ecco, qui il presidente, come dire, rivendica la sua tenacia, il fatto che ha tenuto duro sulle sanzioni, ma ha cercato il dialogo con l'Iran. Ricordiamo la stretta di mano alle Nazioni Unite, la prima stretta di mano non più tardi di 1 anno e mezzo fa. E Obama dice: le trattative sul nucleare con l'Iran hanno seguito un principio in cui l'America crede fortemente, quello cioè di non negoziare partendo da un presupposto di paura, ma allo stesso tempo di non aver paura di negoziare. I repubblicani alla Camera resteranno vigili. Naturalmente, nell'accordo di ieri mancano, come vi ho detto, molti dettagli. Ad esempio, quando si dice che gli impianti sotterranei di Fordo saranno trasformati in un centro di ricerca e sviluppo, che cosa si intende davvero? Solo una conversione per la ricerca nucleare sugli isotopi con finalità mediche, oppure lo studio di nuovi acceleratori più moderni e veloci che potrebbero tagliare del 50% i tempi per arricchire l'uranio? Ecco, questo è problematico. Il dettaglio non è specificato, dovrà esserlo nel negoziato di giugno per garantire che l'Iran rispetti non solo la lettera, ma anche lo spirito dell'accordo annunciato ieri. E perché mai il reattore ad acqua pesante di Arak resterà aperto e opererà su livelli che non consentiranno di avere plutonio a sufficienza per produrre una bomba invece di essere chiuso del tutto? Sentiamo su questo, perché una risposta indiretta è venuta dal ministro degli esteri Javad Zarif. We have decided to take steps for a period of time to assure anybody who had concern, which we thought those concerns were misplaced anyway, that our program is exclusively peaceful, has always been and will always remain exclusively peaceful. Javad Zarif, un volto nuovo dell'Iran, sorridente, aperto, con ottimo inglese, è un volto tipico davvero di questo nuovo Iran che vuole cercare un contatto con l'Occidente, che vuole andare avanti, che vuole aprirsi, e ha spiegato che l'orgoglio iraniano non deve essere offeso. Cioè, noi negoziamo, abbiamo fatto marcia indietro su molte cose, però non possiamo farla completamente, non possiamo chiudere tutto, dice Zarif, ma vi diamo la promessa che non ne faremo nulla da un punto di vista pratico, perché il nostro obiettivo da sempre è quello che l'utilizzo dell'energia nucleare che riusciremo a produrre sarà solamente pacifico. Ecco, naturalmente la verifica di questo verrà dagli ispettori dell'Agenzia Atomica Internazionale, avranno accesso illimitato anche di impianti militari iraniani, cosa che fino a ieri non sembrava essere nelle carte. Le scadenze temporali sono rassicuranti, 10 anni per i limiti all'utilizzo delle centrifughe che restano operative, cioè circa 6.000 contro le 19.000 che sono attive adesso. Un impegno di 15 anni per la produzione di uranio arricchito al di sotto del livello chiave del 3,67%, un accesso agli ispettori dell'Agenzia Atomica per 25 anni su alcune ispezioni che garantiranno che non c'è poi un utilizzo militare. E tutto questo, voglio dire, rimanda a tempi lontani, scadenze queste che hanno sorpreso. C'è stata, devo dire, una sapiente comunicazione: il negoziato doveva scadere il 30 di marzo, poi si è detto dobbiamo negoziare ancora dei giorni, non sappiamo se avremo davvero una dichiarazione. Insomma, si erano create delle aspettative negative e invece sono stati dati molto più dettagli di quelli che ci si aspettava. Se tutto andrà bene, se non ci saranno trucchi, rotture improvvise, se il leader supremo Khamenei non ci farà delle brutte sorprese a partire dal 30 di giugno, avremo dunque davanti a noi tempi lunghi per ricostruire il dialogo con l'Iran, le sanzioni cadranno, ci sarà un rinnovamento dell'attività economica, e a giudicare dalla rapidità con cui si sono evolute le cose nello scenario globale, chissà che in 10 anni le cose a Teheran non cambino davvero. Intanto sono cambiate già ieri, perché per la prima volta il discorso di Barack Obama di ieri è stato trasmesso in diretta dalla rete televisiva iraniana, e pensate, sia il ministro degli esteri che il presidente Rouhani hanno dato l'annuncio dell'accordo su due Twitter diversi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Direi di restare in tema, e l'obiettivo storico è quello di spostarci nei rapporti con l'Iran su, come dire, su un terreno più elevato. E dunque è venuto in mente un gruppo musicale rock americano degli anni 70, di Hoboken, del New Jersey, e che ha scritto una canzone, Higher Ground, appunto su un livello più elevato. Sto parlando dei Phillies, Higher Ground. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! America 24.